9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, 9.13 minuti, 9.13 in punto, più che 9 in punto, ma entriamo subito nel tema di oggi. Siccome i minuti passati sono tanti, farò la mia introduzione molto molto molto brevemente. Qualche dato semplicemente sul comparto del vino, poi vi presento immediatamente i nostri ospiti per fare il punto con loro più autorevolmente che con me. Come vi ricordo, il vino vale più o meno nella nostra economia 13 miliardi rotti di euro, 3 miliardi e mezzo, 3 miliardi e 6 dall'export. Negli ultimi anni è diventata la componente della bilancia commerciale agroalimentare più importante da questo punto di vista. Bisogna aggiungere a questa cifra poi anche quella delle tecnologie da cantina italiana, che sono leader, quelle italiane nel mondo, e sono un altro paio di miliardi e mezzo. Quindi stiamo parlando di un comparto economico molto rilevante che fa il segmento elevato, diciamo così, del Made in Italy agroalimentare italiano nel mondo, grande qualità, grande civiltà. Il fenomeno è quello dell'innalzamento della capacità tecnica del trattamento del vino negli ultimi due decenni e mezzo, con vini di straordinaria qualità che si affermano contendendo a quelli francesi, segmenti crescenti del mercato, e questo riguarda, diciamo così, la qualità. Ma come stanno andando dal punto di vista economico le cose in questi primi sei mesi del 2009? Diciamo che tutto sommato non ci possiamo lamentare. Io vi ricordo che l'Italia da questo punto di vista è il primo produttore mondiale di uva, abbiamo quasi il 12% del totale della produzione mondiale, siamo il primo produttore mondiale di vino, superiamo la Francia perché siamo il 18% più o meno della produzione mondiale. Quindi per noi è una questione importante tentare di capire, al di là della grande qualità e della civiltà legata al nostro vino nel mondo, come ce la stiamo battendo con gli altri. Direi che tutto sommato i primi sei mesi del 2009 dicono che c'è una tendenza molto evidente, che dipende anche dall'andamento dei cambi. L'abbiamo parlato la settimana scorsa, siccome stiamo in un mondo in cui il dollaro tende a deprezzarsi, ovviamente le esportazioni verso gli Stati Uniti risente molto di questo. Ma complessivamente in questi primi sei mesi del 2009, io i dati sono riferiti a questi, c'è un fenomeno figlio della crisi, appunto. Cioè, che cosa succede? Succede che aumentano i volumi dell'esportazione, però naturalmente in presenza di una marcatissima diminuzione dei valori, che tendono solo ultimamente, negli ultimi mesi, a riprendere. Però quello che conta è che su il valore delle nostre esportazioni nei primi sei mesi di questo 2009, dopo un 2008 che già non era stato un granché perché avevamo perso il 7-8%, siamo ancora più o meno al meno 7% del valore perso, mentre i volumi aumentano anch'essi più o meno del 7%. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo in presenza di un fenomeno mondiale per il quale nel più dei paesi in cui esportiamo si tende a volere unità di volumi maggiori di quelli dell'anno scorso, però pagandoli meno. Quindi il prezzo unitario medio scende del 12-13-14%, e questo significa che naturalmente per essere competitivi rispetto ai francesi, ma non solo, e ricordando che il nostro primo mercato in questo momento è diventata la Germania, che è in fortissima crescita in questi due ultimi anni, il Regno Unito è il secondo mercato, gli Stati Uniti perdono molto naturalmente perché c'è l'effetto del cambio. Ma questo cosa significa? Significa che in generale per i nostri produttori, soprattutto per quelli di fascia più elevata, per quelli più qualificati, per le oltre 40 denominazioni d'origine controllate e garantite in Italia, c'è un forte problema di commerciale, di marketing, perché bisogna sostenere esportazioni diminuendo il valore medio, e quindi certo punendo investimenti che nel loro caso, stiamo parlando di aziende concentrate che spendono molto sull'enologo, che spendono molto sulle tecnologie, e però il ritorno sul capitale investito l'anno scorso, quest'anno e in prospettiva forse l'anno prossimo non è molto buono. Quindi non vi fate ingannare dagli articoli dei giornali giornalisti che scrivono abitualmente dei grandi vini italiani battuti nelle grandi aste. Certo, nelle grandi aste i grandi vini italiani entrano in percentuali sempre maggiori, non solo i francesi, spuntano grandi prezzi, ma quello che conta è che per stare sul mercato bisogna essere capaci purtroppo di agire su forbici di prezzo al ribasso, e vediamo con i nostri ospiti che cosa vuol dire da questo punto di vista nei diversi segmenti del mercato. Presento gli ospiti, con i quali mi scuso perché ovviamente la mia introduzione non è affatto tecnicamente alla loro altezza, ma ricordiamo che stiamo parlando a un pubblico generalista questa mattina. Abbiamo innanzitutto il grande, grandissimo Davide Paolini, il gastronauta che il pubblico di Radio 24 conosce benissimo. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo con noi Ernesto Abbona, che è il presidente delle cantine marchesi di Barolo. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Ampelio Bucci, che è un grande produttore nell'area, in questo caso marchigiana, diciamo così, Villa Bucci, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Marco Caprai, uno dei grandi rilanciatori del Sagrantino di Montefalco. Buongiorno Caprai. Buongiorno a tutti. Ecco Paolini, io mi affido a lei naturalmente, ma come stanno le cose dal punto di vista di un osservatore tecnico come lei? In questi primi sei mesi possiamo essere soddisfatti rispetto ai nostri concorrenti? Ma anch'io sono molto dubbioso sul discorso che appaiono sui giornali che i nostri vini strappano dei grandi risultati, diciamo le aste, oppure di grandi punteggi. Io vedo all'orizzonte una diminuzione di consumi che riguarda l'Italia, ma riguarda anche il mondo. Di conseguenza riguarderà anche i vini francesi, riguarda i vini australiani, per esempio, che negli ultimi anni, diciamo, sono quelli che sono cresciuti di più, specialmente nella fascia, diciamo, non dico bassa, ma sicuramente mediana, quindi dandoci molto noia. Il problema è che sicuramente anche il consumo del vino è determinato dalla crisi dei consumi in generale. Inoltre, secondo me, i vini italiani erano cresciuti troppo di prezzo negli ultimi anni, e questo sicuramente è stato un dato molto negativo. Oggi si vede infatti che molti vini o si sono fermati o hanno fatto marcia indietro. E diciamo che nel paese, ad esempio in Italia, i problemi dei consumi sono molto legati anche all'etilometro. Non ci sono dubbi che l'etilometro ha creato non pochi problemi al consumo del vino. Io non vedo un orizzonte così brillante, così luminoso, vedo un orizzonte di stazionarietà, quindi credo che la crescita che c'è stata in questi ultimi anni, anche di proliferazione di nuove etichette, questo secondo me è un altro punto da andare a verificare. Io credo che ci sia stata una crescita troppo veloce, troppo rapida di moltissimi nuovi investimenti nel settore del vino, e credo che saranno questi i primi che pagheranno magari le difficoltà dei prossimi anni. Oh, ma secondo lei siamo in presenza anche di un fenomeno di consolidamento, cioè in tanti che hanno investito non abbastanza nel segmento elevato, forse alcuni si dovranno ritirare e forse grandi gruppi, non solo italiani ma anche internazionali, inizieranno a guardare i prezzi della terra italiana, che come sappiamo, insomma, non sono bassi nei terreni vocati dove ci sono i grandi disciplinari, oppure no secondo lei? No, io credo che la polverizzazione che c'è stata in questi ultimi anni diminuirà. È possibile che ci siano operazioni di concentrazione, indubbiamente, anche perché le sinergie nella vendita, ad esempio nel marketing o nella promozione, saranno assolutamente necessarie. Abbona, per insomma, adesso io sono piemontese, quindi a me viene da dire per il meglio del meglio, ma perdono rispetto a chi preferisce i toscani o comunque preferisce qualunque altra delle grandi produzioni di qualità italiane, però per me insomma il principe, il re del segmento elevato, cioè il Barolo, dal punto di vista della commercializzazione, delle tecniche in atto per difendersi sui mercati, questo 2009 fino a questo momento come lo state vivendo? Ma intanto condivido l'analisi puntuale del collega Davide Paolini, perché è stato un quadro corretto di cosa sta succedendo sui mercati. Io potrei aggiungere ancora che da imprenditore certamente noi non siamo spettatori ma siamo protagonisti, e quindi cerchiamo di attuare delle politiche che certamente contraddicano questo stato di fatto rilevato dal giornalista, e cioè che condiano ottimismo al consumatore. Allora, laddove i prezzi si rilevavano troppo alti, e qui indubbiamente ogni casa vinicola ha giocato per sé perché c'è una grandissima differenziazione sul mercato, ecco, ma in generale, per esempio, la mia azienda sta proponendo i vini al bicchiere. Quindi laddove una bottiglia è diventata di difficile acquisizione, ecco che un servizio al bicchiere, che in stati, soprattutto nel Nord America, è un servizio abbastanza frequente nella ristorazione, può stimolare quindi un consumo che altrimenti si sarebbe indubbiamente rallentato. La mezza bottiglia era praticamente non più presente nell'offerta di tante cantine, di tantissime cantine. Negli ultimi anni abbiamo avuto la percezione che soprattutto durante il pranzo del mezzogiorno il consumare una bottiglia diventasse in ogni caso un'esagerazione. Ecco allora che la nostra cantina, credo insieme ad altri colleghi, ha presentato questa offerta, quindi in modo da colmare una domanda che altrimenti sarebbe rimasta certamente in evasa. Quindi ci sono aspetti, un quadro generale negativo, ma possono essere attuate in questo quadro generale delle politiche anche di sviluppo o quantomeno di contenimento del trend. Oh, Bucci, e più o meno era dall'inizio del 2000, 2001, 2002, se non ricordo male, che sul totale della nostra esportazione i vini imbottigliati avevano superato il vino sfuso, diciamo, quindi c'era questa tendenza netta verso il valore medio unitario sempre più elevato. Ora, i dati di questi ultimi sei mesi, ma anche del 2008, sembrano attestare una tendenza opposta, cioè si torna verso un valore medio più basso e inevitabilmente ci si concentra di più sulla grande distribuzione, quella in cui la contrazione dei volumi per il minor costo distributivo è più contenuta rispetto al segmento elevato della ristorazione, che subisce di più naturalmente i colpi della crisi. Allora, da questo punto di vista, che cosa si tratta di fare? Si tratta un po' di invertire la strategia, oppure sono, diciamo, i vini del segmento medio rispetto a quelli elevati, quelli in cui l'ottimizzazione delle risorse investite per la territoriale ha consentito di tenere i prezzi più contenuti, quelli che risentono meno di questa crisi? Ma dunque, purtroppo su tutti i mercati, anche non su quello del vino, si dimostra che razionalmente il prezzo medio sarebbe sempre quello giusto, mentre invece su tutti i mercati succede che quella che era una volta la piramide dei consumi sta diventando una specie di clessidra, per cui razionalmente uno dice sì ai prezzi medi, però invece in tutti i mercati, e quello del vino soprattutto, funziona bene ancora i prezzi alti, non quelli altissimi, e qui ha ragione perfettamente Davide, ci si è illusi di poter fare delle cose straordinarie, ci si è illusi di essere mitici come i francesi, ma quelli sono 300 anni che vendono il vino, ecco. E il problema dei prezzi bassi è invece un po' drammatico, perché abbassare il livello prezzo medio vuol dire non riprendere più il prezzo, e lì secondo me è importante migliorare quello che è stato già detto, cioè il sistema non di vendita ma di marketing. Per esempio, in questi giorni c'era sui giornali questa notizia che io ho trovato raccapricciante: gli bollicine, parola già di per sé stessa raccapricciante, italiane superano i francesi. Nelle bollicine si mette dentro i meravigliosi Franciacorta, i vini, gli spumanti straordinari del Trentino, e si scende di livello fino all'ultimo bollicina fatta in regioni fuori zona, mentre i francesi sono essenzialmente champagne o altri vini a quel livello. Ecco, allora lì automaticamente, in questo caso sono veramente i giornalisti, si tira verso il basso, perché confrontare un prosecco, peraltro buono eccetera eccetera, da 3-4 euro, metterlo insieme in questa cosa, ai grandi vini che si fanno in Franciacorta, che sono tecniche completamente diverse, questo è un errore. Cosa bisogna fare? Secondo me è difficilissimo veramente. Secondo me bisogna credere nelle qualità. Io penso che sia questo, però non lo so, qui è un po' come veramente rischiare. Io sto lavorando, ma non solo io, sulle qualità delle differenze italiane, che sono i vitigni indigeni, le differenze di territorio, gli aspetti legati al turismo, e bisogna, secondo me, andare in giro purtroppo a spiegare queste cose, perché non si può farle con la pubblicità. Spiegare, cioè far capire alla gente che l'Italia può dare dei vini non migliori della Francia, ma diversi. Siccome in tutti i settori alimentari il diverso, naturalmente a livello di nicchia, non a livello di grandi mercati, sta funzionando bene, la gente ha curiosità. Ecco, io credo che questa sia una strategia per le piccole aziende o quelle che hanno comunque che lavorano su vitigni non internazionali. Poi ci saranno strategie diverse per gli altri. Oh, Caprai, nel suo caso appunto si lavora su vitigni non internazionali, si lavora a un segmento elevato di eccellenza, quindi di richiesta di investimenti. La domanda che faccio a lei è: in questo caso, rispetto a dimensione di azienda e di eccellenza come la sua, il sistema complessivo, cioè quello della plurima competenza di politiche pubbliche di promozione sul mercato italiano e all'estero, come funziona? È più nemico o più alleato? E si è reso più sensibile, secondo lei, nell'ultimo anno e mezzo, oppure è rimasto tutto come prima? Beh, ecco, questo è sicuramente uno dei punti dolenti del nostro sistema paese. Nonostante gli sforzi, si vedono poche strategie da paese, da primo paese produttore del mondo. Ecco, noi siamo un grande paese dove poi, come dice bene il mio collega Bucci, ecco, dobbiamo andare noi continuamente, questo lo facciamo anche volentieri, a spiegare la diversità del vino italiano, quindi lavorare molto sull'unicità, lavorare molto sull'educazione al gusto del prodotto italiano, sulla valorizzazione dell'Italia, sulla gastronomia. Ecco, in questo il nostro paese non fa quello che fanno altri paesi, c'è una difficoltà nel comprendere la peculiare diversità dell'Italia, quindi noi abbiamo decine di migliaia di produttori, prodotti molto diversi dalla Val d'Aosta alla Sicilia, e quindi dobbiamo formare sommelier, dobbiamo formare educatori, dobbiamo partecipare a quello che è il creare il consumo. Il nostro paese in questo lo fa male o non lo fa per niente. Ecco, ora la pubblicità, però poi io riparto con due domande che faccio a Davide Paolini. Io ho l'impressione che ce l'hanno un po' tutti, un po' anche montati la testa, perché se uno va a vedere quante manifestazioni ci sono in Italia ogni fine settimana con pretese di eccellenza nel vino, ce ne sono oramai centinaia e centinaia da una parte. Dall'altra, ma non è che ci siamo un po' tutti troppo persi dietro il biologico, il biodinamico, cioè tutte cose che fanno costare le bottiglie ancora di più, con una spaccatura del mondo dei produttori, dei consumatori? Certo, il mondo è bello perché è diverso, però una domanda anche su questo. Eccoci tornati in studio, allora ricominciamo con Davide Paolini. Non è che ci eravamo, dicevo, un po' tutti un po' troppo montati la testa, troppe manifestazioni, troppe spese più per autopromozione che per promozione sul mercato, per autocelebrazione, e poi non ci eravamo iniziati troppo a dividere ideologicamente tra i compatibili, non compatibili, biologici, biodinamici? Domanda un po' provocatoria, perché io naturalmente ideologicamente sono non molto favorevole a chi fa ideologia anche sul vino, però insomma, mi inchino di fronte al gastronauta. Prego Davide. No, devo dire che sulla prima domanda io mi vorrei ricollegare al discorso delle, come ha detto giustamente Bucci, questa orrida parola bollicine, nel senso che il fatto che in Italia continuiamo a mettere assieme tante cose diverse, le mele con le pere, e diciamo raffrontandole con quelle che sono lo champagne e basta, e non con anche con altri vini spumanti francesi, cioè commettiamo questo errore, secondo me, di presunzione, cioè non possiamo mettere a confronto queste cose. Sicuramente c'è un metodo classico italiano e c'è uno champenoise francese, poi il resto sono tutte cose diverse. Anch'io mi tolgo il cappello di fronte al successo straordinario che ha ottenuto il Prosecco in questi anni, per carità, però è cosa diversa, quindi cominciamo, diciamo, a mettere le cose a posto. Ecco, questo fatto di mettere tutto assieme e di voler continuare a far uscire sui giornali questi dati che dice abbiamo battuto i francesi è veramente un'operazione di presunzione che non ci fa stare con i piedi in terra. Sul secondo punto di tutte queste manifestazioni è veramente incredibile, e io mi ricollego al discorso di Caprai, ha ragione lui, qui non c'è coordinamento, cioè ogni giorno arrivano sul tavolo centinaia e migliaia di manifestazioni fatte a caso, però fatte sul territorio per il territorio, non per attrarre sul territorio, non per far conoscere il territorio e far arrivare la gente sul territorio, ma per la gente del territorio. E come la promozione all'estero succede, e io avendo lavorato per una grande azienda per tanti anni lo vedevo appunto quando andavo in giro per il mondo ad alcune manifestazioni di organizzazioni italiane, si fanno all'estero per chiamare i rappresentanti italiani all'estero, non si fanno all'estero per gli stranieri, per far conoscere i nostri prodotti. Io credo che ci sia una casta delle promozioni, io più volte l'ho denunciato, se andiamo a vedere i dati regionali, provinciali, comunali e magari si scende ancora, si vede che tante delegazioni vanno in giro per il mondo, va prima la regionale, poi la provinciale, poi la comunale, presentando le stesse cose negli stessi luoghi, sperperando denaro e denaro e denaro, cioè ci vorrebbe così un'operazione di concentrazione, basta vedere anche le fiere, ormai sorgono fiere ovunque, cioè credo che questo sia veramente uno sperpero di denaro anche, soprattutto in questo momento, folle, io ritengo. Per arrivare al tuo secondo punto, vorrei così fare una cronistoria. Un po' di anni fa è stato il momento del boom dei vini e dei vitigni autoctoni, c'è chi diceva ce n'erano 400, chi 500, c'è stato un momento non si parlava d'altro, e poi all'improvviso è sparito tutto. Certo, ci sono il Sangiovese, il Montepulciano, il Nebbiolo, sono vitigni autoctoni, su questo nessuno discute, ma tutti quelli di cui si parlava che sarebbero dovuti intervenire nel mercato per combattere l'omologazione, ma dove sono finiti questo momento? Ora è il momento di vini naturali, biologici ed altro, anche qui con tutto il rispetto di, ci sono dei bravissimi produttori sicuramente in questo settore, però poi dietro va una pletora di persone che stanno cercando il momento della moda, e questo è il problema basilare. Cioè, ci sono persone serie che iniziano un certo tipo di discorso e poi dopo, quando si vede un minimo di risultati di vendita, di marketing o d'altro, arriva il gruppone e lì finisce l'avventura. Beh, basta vedere la cosa che mi fa veramente dispiacere, perché ho guardato con interesse ai vini naturali, sono nate 3 associazioni, cioè ci sono 100 produttori e 3 associazioni, ma com'è possibile che ci sia una spaccatura su questo? Perché hai ragione tu, molte volte su certe cose si fa dell'ideologia, e questo è un fatto tipico italiano, non certo in francese. In Francia ci sono il movimento dei biodinamici, sta andando a gonfie vele. Perché? Perché è unito, perché sicuramente fa parte di una strategia ben precisa e non tutti all'arrembaggio. Esattamente. Comunque, per coloro che seguono con particolare attenzione questa tematica, dal 24 al 28 di novembre qui alla Fiera di Milano in Enovitis c'è un 2 giorni di approfondimento con uno, diciamo, dei massimi guru italiani, il professor Attilio Scienza, che per tutti quelli che seguono il biodinamico e il vini bio è una specie di faro, di punto di riferimento. Quindi 2 giorni intorno all'interrogarsi su come si possono mettere anche le forcine nei vitigni ecocompatibili. Io lo dico con una punta di ironia, obiettivamente, ma sono come sempre un giamburrasca. Allora, qualche telefonata di ascoltatori ai quali poi facciamo rispondere direttamente i nostri ospiti. Paolo da Bologna innanzitutto, prego Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, sì, fare del Sangiovese di livello è difficilissimo, come tutte le cose del mondo quando devono essere di livello sono veramente difficili. Comunque è vero quello che diceva il gastronauta, è verissimo, ci sono alcune cose, tipo per esempio la suddivisione, la polverizzazione delle aziende e contemporaneamente la riunificazione in due situazioni consorziali, è terribile questa cosa qui, anche perché se 10, 15, 20, 30 produttori ci si mette d'accordo, ci mettiamo d'accordo, nasce immediatamente il consorzio e allora arriva la Lega delle Cooperative, la Feder Consorzi, arriva l'Unipol, arriva il Conad, la COP, arriva questo, arriva quello, arriva quell'altro. E poi decidono chi deve fare l'imprenditore. Una volta per esempio lo decideva la CGL se doveva fare l'imprenditore o meno qui in Emilia Romagna, adesso per esempio sono le banche che lo decidono, le banche del PC decidono se uno deve fare o non fare l'imprenditore. Sono tutte queste qui che purtroppo però ammazzano chi intraprende, ammazzano chi cerca il livello, ammazzano chi cerca di vendere all'estero non facendo venire i rappresentanti italiani. Questa è una cosa molto difficile. Grazie Paolo, dal quale traggo per i nostri ospiti un punto, soprattutto la difficoltà con le banche. Questo bisogna vedere, poi chiederemo anche a loro direttamente qual è la loro esperienza nell'arco di questa crisi. Marco da Brescia, prego Marco. Buongiorno Giannino, lei e ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Ascolti, io vorrei fare una domanda, le dico subito. Io sono del settore, faccio rappresentante e vendo vino sia per piccole che grandi aziende. La domanda la rivolgo ai produttori che ha lì, Caprai, sì. Bucci, ma cosa aspettano a fare una protesta formale allo Stato? Le spiego, il comparto enogastronomico è trainante per l'economia italiana, ok? E però d'altro canto c'è una criminalizzazione del vino. Allora, 2 bicchieri di vino a pasto non fanno male a nessun adulto, ok? Questo sia ben chiaro. Però poi uno ha paura a bere anche mezzo bicchiere, perché come esci dal ristorante è senza patente. Chiarissimo Marco, noi abbiamo fatto già 2 puntate, mi sono beccato per praticamente del filo ubriacatura, perché facevo rilevare le contraddizioni un po' eccessive di questa campagna italiana e anche della legislazione italiana. Abbiamo ancora Elio da Brescia, poi i nostri ospiti. Prego Elio. Sì, buongiorno, sono Elio da Brescia. Senti, una cosa importante che volevo far riflettere. Io faccio il giornalista e giro l'Italia in lungo e in largo, e negli ultimi 10 anni mi sono accorto, peraltro ho visto tutta la trasformazione del territorio nazionale in una sorta di serra, che da un punto di vista paesaggistico ci ha guadagnato. quello che mi sono sempre chiesto è come queste aziende possono campare e come l'equilibrio tra la qualità e il prezzo possa esistere. Ecco, questo non ho ancora capito, che dalla Sila fino al lago di Garda c'è vita da tutte le parti. Pertanto è una riflessione che, questo sono d'accordo con quello che diceva Paolini prima, lavorando nel settore, io lavoro nel settore dell'artigianato, mi rendo conto che c'è una superficialità ad affrontare i problemi, cosa che non vedo in Francia, ad ogni livello. Pertanto noi non siamo capaci a stare insieme in qualsiasi modo, anche all'interno di un bicchiere di vino, ecco, non riusciamo a stare insieme. Grazie Elio. Fedele da Alba, veramente l'ultimo. Fedele. Sì, buongiorno. Io volevo dire solo un'altra cosa, che secondo me i produttori a volte sono un po' sordi verso le esigenze dei consumatori. Un esempio, il dolcetto, i vecchi dolcetti, lei dice appunto che piemontese forse si ricorda quei dolcetti da 12 gradi, sì. Io non ne vedo più, vedo solo dei dolcetti da 13-14 gradi che non raggiungevano neanche i Baroli queste gradazioni, e quindi mi sembra quasi un'autocelebrazione tra produttori, a chi fa la bottiglia con un grado alcolico maggiore senza ascoltare magari il desiderio del consumatore che vuole una bottiglia di dolcetto da consumare a pranzo. Grazie a tutti. Allora, iniziamo da Abbona. Ci sono nel vasto ventaglio di temi qui produttori che pensano solo a se stessi, domanda ma come fate a conciliare qualità e prezzo eccetera, vediamo qua a quale decide di rispondere Abbona, prego. Ma infatti lo spettro delle domande è molto ampio. Io intanto vorrei dire che in Italia ci sono alcuni territori, le Langhe in particolare, che nel tempo, grazie soprattutto se non esclusivamente ai titolari delle aziende, si sono fatti conoscere nel mondo per la propria individualità, per la propria diversità. E questo è veramente un tema sul quale l'amico Paolini ha fatto bene a operare queste critiche, perché l'intervento pubblico non è servito ad ampliare la conoscenza di questi luoghi, ma a creare, io credo, perfino confusione. Quindi è vero che quando le nostre delegazioni vanno all'estero lo fanno soprattutto per motivi esclusivamente di consenso politico e associativo, purtroppo. È molto meglio andarci da imprenditori, e noi siamo imprenditori da 5 generazioni. Io le posso dire che non credo che ci sia un quadro nerissimo. L'altra settimana era a Toronto, abbiamo fatto una cena degustazione, e come si usa fare all'estero, durante la cena ci sono gli acquisti dei vini che i commensali assaggiano, e abbiamo venduto, lo posso dire, $43,000 di vini, di nostri vini, quindi sono orgoglioso di questo, e non credo che occorra in questo mondo operare strategie nuove. Occorre fare esattamente quello che facevano i nostri vecchi, che ci hanno insegnato a essere accoglienti a casa, non chiudere le porte. Noi abbiamo la fortuna, Barolo, di avere tutti gli anni, negli ultimi anni siamo arrivati a superare i 40,000 turisti. La nostra azienda, Marchesi di Barolo, non è solo un'azienda che produce vino, ma è un'azienda che fa accoglienza, è un'azienda che ha anche un settore, una foresteria, che quindi dà soddisfazione a tutto il comparto enogastronomico. Abbiamo investito anche nel turismo, siamo comproprietari di un albergo a Monforte, quindi tutto questo è veramente per dire che il mondo del vino è veramente diverso in tutta Italia, in tutto il mondo. Ognuno di noi deve privilegiare i suoi asset, quelli che non solo lui, ma prima di lui, i suoi genitori, i suoi nonni, hanno saputo creare da una realtà molto più povera di quella di oggi. Oggi piangiamo la crisi, ma i nostri vecchi hanno superato la crisi del 30, la guerra e questo mondiale. Abbona, mi pare veramente saggia come considerazione, anche perché poi l'eccellenza italiana nasce poi dalla grande crisi del settore, in cui ricordiamo tutto qualche decennio fa, insomma, anche i morti, è stata quella la grande spallata verso la qualità. Eccoci tornati in studio ai nostri ospiti, ricominciamo da Marco Caprai. Ricordo che alcuni temi ci sono stati richiesti, per esempio come va nel vostro rapporto con le banche, se avete registrato una certa insensibilità, come più o meno molte imprese nei diversi rami di attività in questo 2008-2009, oppure insomma se le banche con cui vi lavorate vi hanno dato più una mano, e in che cosa state vedendo modifiche sulla politica di promozione commerciale della regione o nazionale, dell'area in cui appartenete, se vi sta dando una mano oppure se dovete fare ancora di più da soli. Prego Caprai. Grazie, domande abbastanza complesse, perché la scomparsa nel sistema bancario del credito agrario ha drammaticamente reso più difficile all'impresa la vita, ecco, la capacità di ritornare indietro la giusta quota al sistema del credito con la scomparsa della parte speciale, oggi a fronte della crisi è molto difficile e le banche se ne sono accorte, hanno stretto molto, hanno cambiato molto il rapporto. Su questo poi c'è sempre il problema della difficoltà, anche a seguito della nuova legislazione, l'OCM del vino cambierà radicalmente il panorama del vino italiano e qui spesso entra anche in gioco la promozione, perché una buona parte dei soldi che andavano agli agricoltori in forma diretta oggi vanno su investimenti in promozione che le imprese fanno con difficoltà. Se ne approfittano spesso organizzatori di feste e festival che sono pagati con i soldi degli agricoltori. Gli agricoltori pagano di tutto con i soldi provenienti dalla Comunità Europea e di fondo non rimane nulla nelle tasche degli agricoltori, mentre possono tranquillamente festeggiare gli organizzatori musicali. Ecco, forse qualcosa va cambiato, è importante farlo velocemente, far sì che i soldi destinati agli agricoltori arrivino veramente nelle tasche degli agricoltori per permettere lo sviluppo del settore e il mantenimento delle nostre imprese. La domanda Ferbucci, ma se io vedo i dati che monitora Assonology, vedo che in realtà i margini della fiera del vino sono in quest'anno naturalmente in compressione, ovvio, però negli anni precedenti, per questo secondo me ha particolarmente ragione Davide Paolini, si erano insomma allargati abbastanza, perché se uno vedeva la media del prezzo di produzione rispetto al prezzo al consumo, insomma c'era un bel margine che si era realizzato. Ora naturalmente questo è diverso per diversi segmenti della filiera, dipende da quanto uno ha investito rispetto alla sua dimensione aziendale, dipende da qual è la qualità del proprio prodotto, quelli sono dati aggregati. Ma nel chiedere invece alla sua esperienza, con la sua esperienza, il minor margine è una questione a cui si risponde avendo una forza propria di conquista di nuovi mercati, rafforzandosi sui mercati in cui c'è già, oppure richiederebbe una riflessione complessiva, perché i dati che si vedono nel riaggiustamento delle presenze internazionali insomma sono molto forti in termini di macro area. Mi chiedo per esempio nell'Asia, dove pure quest'anno le quote sono in contrazione di esportazione, ma ha senso immaginare che lì andremo a esportare grandi quantità del nostro vino, secondo lei? Ma dunque, quando si parla del vino al singolare si mettono insieme in effetti prodotti completamente diversi, esatto, uno dall'altro, proprio. Per cui ogni dato al singolare non ci dice nulla, perché viene fuori una media di prezzo, una media di quantità. Secondo me ormai bisogna ragionare, ma non solo nel vino, proprio veramente segmentando, ma in maniera non tanto rispetto al consumatore, quelle storie di marketing classico, ma rispetto proprio al mio prodotto, quello che ci metto dentro, perché i vini si possono fare ormai in maniera completamente diversa. Certo. Ci sono dei vini industriali che stanno attaccando i vini europei e qui è stato da Marco Caprai detto, ecco, l'Europa mette una massa di soldi a disposizione. Questi soldi purtroppo passano attraverso lunghi canali, lunghissimi canali, in cui succede quello che è stato detto prima, le regioni, le province, i consorzi. Alla fine all'agricoltore arriva poco e soprattutto in termini proporzionali le decisioni le prende chi capisce molto poco. Ieri sera alla televisione c'era questo film bellissimo di Woody Allen, ripreso Vicky, Cristina, Barcellona. Quello chiaramente è stato anche finanziato dai produttori di vino spagnoli, perché bevono vino in continuazione, dicono che è buono, parlano anche di degustazione ed è lo strumento della seduzione straordinaria di queste tre donne. Ecco, in Italia una roba del genere, adesso mi dicono che Gwyneth Paltrow è stata, gli stessi spagnoli hanno già fatto un contratto con Gwyneth Paltrow che deve girare per la Spagna, turismo, enologia, eccetera. Il problema è questo qui, cioè noi abbiamo dei soldi che buttiamo via, dall'altra parte noi abbiamo una burocrazia che sta salendo, ci sta chiedendo, piccoli e grandi, di investire una parte del tempo, ma una parte enorme. La Confagricoltura dice metà di una persona all'anno, per fare tutta una serie di dati che non danno nulla, nessun risultato, che forse va bene per la grande industria ma non per il piccolo produttore. Ultima cosa che volevo dire, stare insieme, è vero, noi in Italia non siamo capaci di stare insieme. Adesso infatti c'è una nuova speranza in cui ci stiamo attaccando, cioè esiste in Francia un'associazione che si chiama Vignaioli Indipendenti, e questo per rispondere a Davide Paolini, i francesi sono più bravi, ce l'hanno da anni. Adesso hanno fatto Vignaioli Indipendenti Europei. Noi italiani ci siamo attaccati, forse questa è la volta che riusciamo a far qualcosa per cui andare a Bruxelles tutti insieme, i vignaioli europei, questa è veramente la grande novità, a spiegare ai rappresentanti dei 27 paesi europei che il vino in Italia, in Francia, in Spagna è un prodotto culturale, non è un prodotto industriale. E lì c'è però questo problema, perché non ne abbiamo parlato. L'Europa non sta lavorando contro l'agricoltura, ma per un problema molto semplice. Su 27 paesi, per ogni prodotto ce ne sono interessati come produttori 4, 5, 6. Gli altri, che sono quelli che decidono, sono solo consumatori. Per cui per gli altri banalizzare il prodotto, semplificarlo, togliere le caratteristiche vuol dire ridurre l'importazione. Questo è un problema irrisolvibile. Irrisolvibile, infatti. Io devo dire, volevo concludere chiedendo a Davide Paolini il suo programma come ideale ministro del vino italiano per una rivoluzione in 6 mesi, ma naturalmente, siccome i nostri ascoltatori sanno che lo possono ascoltare, noi stessi torneremo sul vino, purtroppo il tempo è tiranno e quindi io continuerò a coltivare l'ambizione di vederlo ministro del vino, perché farei campagna elettorale per lui gratis. Comunque, grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, grazie a Davide Paolini, grazie a regia Filippo Aureggio e Alessandro Marcutulli in redazione, la linea al giornale radio, l'appuntamento a domani. 9 in punto.